notte di settembre non ti fan dormire più, ma il peso del silenzio non lasciarti più e tu lo sai. Tu lo sai. Mondi lontani, neri come gli occhi tuoi, rifletto nel buio e l'acqua senza. Mondi lontani, sogni che si sfiorano per ritrovarsi domani. È tutto in un momento che si fa rincorrere, di memoria che risplendono nel tempo e tu lo sai, tu lo sai. E se rivedi per le strade segni della nostra età, niente finirà.